Il barone ce l'aveva anche un po' con Jupien, perché sapeva come in quella casa, che aveva incaricato il suo factotum di comprare per lui e di far gestire da un tirapiedi, tutti quanti, per colpa del maldestro zio di Mademoiselle de Laurent, fossero più o meno al corrente della sua personalità e del suo nome. Molti, però, credevano che fosse un soprannome e a forza di pronunciarlo male l'avevano deformato. La salvaguardia del barone era stata, insomma, la loro stupidità, non la discrezione di Jupien. Ma il barone trovava più semplice lasciarsi rassicurare dalle sue assicurazioni e, tranquillizzato dalla certezza che nessuno potesse sentirli, gli disse: «Non volevo parlarne davanti al ragazzo, che è molto carino e fa del suo meglio, ma non lo trovo abbastanza brutale. La sua faccia mi piace, ma mi chiama bastardo come se ripetesse una lezione». «Oh no, nessuno gli ha insegnato niente», rispose Jupien senza rendersi conto di quanto la sua affermazione fosse inverosimile. «Del resto, è stato coinvolto nell'assassinio di una portinaia alla Villette». «Ah, la cosa è piuttosto interessante», disse il barone con un sorriso. «Ma mi viene in mente che di là c'è quello che ammazza i buoi al mattatoio e che gli somiglia. È passato per caso. Volete provarlo?» «Ah, sì, volentieri». Vidi entrare l'uomo del mattatoio. In effetti assomigliava un po' a Maurice, ma cosa più curiosa, entrambi avevano qualcosa ad un tipo che personalmente non avevo mai messo a fuoco, ma di cui ravvisai molto bene l'esistenza nel viso di Morel. Se non con Morel, come io l'avevo visto, essi avevano almeno una certa somiglianza con un certo viso che qualcuno che avesse visto Morel, con occhi diversi dai miei, avrebbe potuto comporre con i suoi tratti. Non appena ebbi messo insieme dentro di me, con dei tratti presi dai miei ricordi di Morel, questo bozzetto di ciò che egli poteva rappresentare per un altro, mi resi conto che quei due giovanotti, uno dei quali era commesso di gioielleria e l'altro fattorino d'albergo, erano dei vaghi succedanei di Morel. Dovevo dedurne che il signor di Charlus, quantomeno in una certa forma dei suoi amori, era sempre fedele a uno stesso tipo? Che il desiderio che gli aveva fatto scegliere uno dopo l'altro quei due giovanotti era lo stesso che l'aveva indotto a fermare Morel sul marciapiede della stazione di Doncier, che assomigliavano un poco tutti e tre all'efebo la cui forma, intagliata in quello zaffiro che erano gli occhi del signor di Charlus, dava al suo sguardo quel che di così particolare che m'aveva spaventato il primo giorno a Balbec? Oppure che il suo amore per Morel aveva modificato il tipo di cui andava in cerca e così, per consolarsi della sua assenza, andava alla ricerca di uomini che gli assomigliassero? Feci anche un'altra supposizione, e cioè che, malgrado le apparenze, fra Morel e lui non ci fosse mai stato, forse, che un rapporto d'amicizia, e che il signor di Charlus facesse venire da Jupien dei giovani la cui somiglianza con il violinista era sufficiente a dargli, stando con loro, l'illusione di prendersi del piacere con Morel. Certo, pensando a tutto ciò che il barone aveva fatto per Morel, una tale supposizione sarebbe sembrata poco probabile. Se non si sapesse che l'amore non ci spinge soltanto ai più grandi sacrifici per l'essere che amiamo, ma anche a volte fino al sacrificio del nostro stesso desiderio, che d'altronde viene tanto meno facilmente esaudito quanto più l'essere che amiamo sente d'essere amato. A togliere alla mia supposizione l'inverosimiglianza che essa mostra a tutta prima, pur restando improbabile che corrisponda alla realtà, è il temperamento nervoso, il carattere profondamente appassionato del signor di Charlus, che era simile in questo a quello di Saint-Louis e che all'inizio del suo rapporto con Morel aveva forse svolto lo stesso ruolo, con un che di più decente e negativo, avuto all'inizio del rapporto di suo nipote con Rachel. I rapporti con una donna che amiamo, e la cosa può estendersi all'amore per un giovanotto, possono rimanere platonici per una ragione diversa dalla virtù della donna o dalla natura poco sensuale dell'amore che questa ci ispira. La ragione può essere che l'innamorato, reso troppo impaziente dall'eccesso del suo amore, non sa aspettare con la dovuta finzione di indifferenza il momento in cui otterrà quanto desidera. Torna continuamente alla carica, non smette mai di scrivere all'amata, cerca continuamente di vederla, lei rifiuta, lui si dispera. A questo punto lei ha capito. Se gli concede la propria compagnia, la propria amicizia, tali beni appariranno già tanto considerevoli a chi ha creduto d'esserne privato, che la donna può dispensarsi dal dare di più e approfittare d'un momento in cui lui non può più stare senza vederla, in cui vuole mettere fine alla guerra a qualsiasi costo, per imporgli una pace la cui prima condizione sarà il platonismo dei rapporti. Per tutto il periodo precedente al trattato, d'altronde, l'innamorato è stato sempre così ansioso, così incessantemente a caccia d'una lettera, d'uno sguardo, che ha smesso di pensare al possesso fisico, il cui desiderio l'aveva tormentato all'inizio, ma che si è logorato nell'attesa, facendo posto a bisogni d'un altro ordine, più dolorosi del resto, se non vengono soddisfatti. Allora, il piacere che il primo giorno s'era sperato di trovare nelle carezze, lo si riceve più tardi, affatto snaturato, sotto forma di parole amichevoli, di promesse di presenza, le quali, dopo gli effetti dell'incertezza, a volte semplicemente dopo uno sguardo incupito da tutte le nebbie della freddezza, che allontana a tal punto la persona da farci credere che non la rivedremo mai più, sono causa di distensioni deliziose. Tutto questo le donne lo indovinano e sanno che possono concedersi il lusso di non darsi mai a quelli nei quali, se sono stati i primi giorni troppo nervosi per nasconderlo, sentono l'inguaribile desiderio di loro. La donna è troppo felice di ricevere, senza dare nulla, molto più di quanto è solita ricevere quando si dà. I grandi nervosi credono così alla virtù del loro idolo. E l'aureola che le mettono attorno alla testa è dunque un prodotto, ma come si vede molto indiretto, del loro amore eccessivo. Esiste allora nella donna ciò che esiste a uno stato di inconsapevolezza in certi medicinali ignari della propria astuzia, come i sonniferi, la morfina. Non è a quelli cui danno il piacere del sonno o un autentico benessere che essi sono assolutamente necessari. Non è da loro che vengono acquistati a peso d'oro, scambiati con tutto ciò che il malato possiede, ma da altri malati, che d'altronde sono forse gli stessi, ma diventati, a distanza di qualche anno, diversi, cui il medicinale non dà né il sonno né alcuna voluttà, ma che finché non ce l'hanno sono in preda a un'agitazione che vogliono far cessare a qualsiasi prezzo, fosse anche quello della vita. Quanto al signor di Charlieu, il cui caso, tutto sommato, con una leggera differenza dovuta all'eguaglianza del sesso, rientra nelle leggi generali dell'amore. Poco contava che lui appartenesse a una famiglia più antica dei Capetingi, che fosse ricco e ricercato, invano, dalla gente elegante, e Morel non fosse niente, e che avrebbe potuto dirgli, come aveva detto a me, «Sono principe, voglio fare il vostro bene». Era pur sempre Morel, se non voleva cedere, ad avere la meglio. E perché non volesse, bastava forse che si sentisse amato. Lo stesso orrore che i grandi provano per gli snob, che vogliono a tutti i costi la loro amicizia. L'uomo virile lo prova per l'invertito, la donna per ogni uomo troppo innamorato. Il signor di Charlieu non soltanto godeva d'ogni privilegio, ma ne avrebbe offerti di immensi a Morel. Ma è possibile che tutto ciò si fosse infranto contro una volontà? In questo caso, al signor di Charlieu sarebbe capitato, come a quei tedeschi cui peraltro apparteneva per origine e che durante la guerra allora in corso erano sì, come il barone ripeteva un po' troppo volentieri, vincitori su tutti i fronti. Ma a cosa servivano le loro vittorie, visto che dopo ciascuna di esse trovavano gli alleati più decisi a rifiutar loro la sola cosa che i tedeschi avrebbero voluto ottenere, la pace e la riconciliazione? Allo stesso modo, Napoleone entrava in Russia e chiedeva magnanimamente alle autorità di andare verso di lui, ma non si presentava nessuno. Scesi e rientrai nella piccola anticamera dove Maurice, che non sapeva se lo avrebbero riconvocato e al quale Jupien aveva detto per ogni evenienza di aspettare, stava facendo una partita a carte con uno dei suoi compagni. C'era grande agitazione per una croce di guerra che era stata trovata per terra e di cui non si sapeva chi l'avesse perduta, a chi farla avere per evitare una punizione al titolare. Si parlò poi della bontà d'un ufficiale che si era fatto uccidere nel tentativo di salvare la vita alla sua ordinanza. «Ce n'è di brava gente fra i ricchi, nonostante tutto. Io mi farei ammazzare con piacere per un tipo così», disse Maurice, che evidentemente eseguiva le sue terribili fustigazioni sul barone soltanto per un'abitudine meccanica, gli effetti di un'educazione trascurata, il bisogno di denaro e una certa tendenza a guadagnarlo in un modo che era ritenuto meno faticoso del lavoro e lo era forse di più. Ma era forse, come aveva temuto il signor di Charlieu, un cuor d'oro. E a quel che pareva un ragazzo d'ammirevole coraggio. Aveva quasi le lacrime agli occhi, parlando della morte di quell'ufficiale, e non meno commosso era il giovanotto di 22 anni. «Ah, sì, sono tipi come si deve. Dei disgraziati come noi? Ancora, non è che abbiamo tanto da perdere, ma un signore che ha un sacco di camerieri, che tutti i giorni alle 6 può andare a scirupparsi il suo aperitivo, è il colmo dei colmi. Ci si può ridere quanto si vuole, ma quando si vede morire dei tipi così, fa sempre un certo effetto. Il Padre Eterno non lo dovrebbe permettere che della gente così ricca crepi. Tanto per cominciare, sono troppo utili agli operai. Solo per una morte come questa bisognerà far fuori tutti i crocchi, lasciarne neanche uno con quello che hanno fatto a Louvain poi e le mani tagliate ai bambini. Io non so, sono mica meglio d'un altro io, ma piuttosto di stare sotto a dei barbari simili preferirei beccarmi un bel confetto in testa, perché non sono uomini quelli, sono dei veri barbari, non vorrei dire di no». Insomma, erano tutti patrioti, quei ragazzi. Uno solo, leggermente ferito a un braccio, non fu all'altezza degli altri. Infatti, poiché doveva ripartire presto, disse: «Accidenti, non è stata la ferita giusta, tale da farlo riformare. Così come Madame Swan in altri tempi diceva, ho trovato il modo di buscarmi la dannata influenza». La porta si riaprì sull'autista che era andato a prendere un po' d'aria. «Come? Hai già finito?» «Non è stata lunga», disse scorgendo Maurice, che credeva intento a picchiare quello che avevano soprannominato, con allusione a un giornale che usciva a quel tempo, L'Homme Enchaîné. «Non è stata lunga per te che sei andato a spasso», rispose Maurice, seccato che si vedesse che di sopra non era piaciuto. «Vorrei vedere te se fossi costretto, con il caldo che fa, a pestare a tutta birra. Non fosse per i 50 franchi che scuce. E poi è uno che parla bene. Si vede che è una persona istruita. Cosa dice lui? Che finirà presto? Dice che non si riuscirà a farli fuori, che finirà senza che vinca nessuno. Porco demonio! Ma allora è un crocco. Parlate troppo forte, ve l'ho già detto», intervenne, vedendomi, il più vecchio. «Avete finito con la camera? Al diavolo, non sei mica il padrone qui?» «Sì, ho finito, venivo appunto a pagare». «È meglio che paghiate al principale. Maurice, va un po' a cercarlo». «Ma non vorrei disturbarvi». «Nessun disturbo». Maurice salì e tornò dicendomi: «Il principale arriva subito». Gli diedi 2 franchi per il disturbo. Arrossì di piacere. «Ah, grazie mille. Li manderò a mio fratello che è in prigionia. No, non sta male. Dipende molto dai campi.